Come tutto il mondo, non conta dove stai, il sangue e il sogno possono comunque andare a fondo. Alza la testa e spingi fino in fondo, non guardare il deserto a terra, ma sogna la pioggia di diamanti che verrà. Sdraiato sotto un carro armato, come in piazza Tiananmen. Sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen. The money, money, money. Con più diamanti che a Nairobi. Bloody, bloody, bloody. Con più sete che nel deserto del Gobi. Ma nessun posto troverai un cielo perfetto. La dura realtà e il disincanto continueranno a puntarti contro. E se abbassi la testa ti spingono giù in fondo, non guardare il deserto a terra, ma sogna la pioggia di diamanti che verrà. Sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen, in piazza Tiananmen. Sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen, in piazza Tiananmen. Money, money, money. Con più diamanti che a Nairobi. Bloody, bloody, bloody. Con più sete che nel deserto del Gobi. Queste pagine dovrebbero essere pagate in contanti, contanti su contanti. Noi nascosti ormai in lavori anonimi, noi col talento esplodendo come angeli. Esplodendo come angeli, sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen, sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen, Tiananmen. E ti regalerei una vita da regina, una fragola trafitta sopra un muro in questo mondo in rovina. E più mi spinge questo muro, più su una cosa la so di sicuro, che ora sono libero ma schiavo e vittima dell'oro per averti mia, che non so se verrà in un futuro. Sdraiato come sotto un carro armato in piazza Tiananmen, in piazza Tiananmen, in piazza Tiananmen, Tiananmen. Dopo il tuono la pioggia di diamanti scenderà, non fermare l'acqua che sgorga, e dalla terra arida nulla mai crescerà. Oggi è già domani ma la natura arriverà. Dopo il tuono la pioggia di diamanti scenderà, non fermare l'acqua che sgorga, o dalla terra arida nulla mai crescerà. Sdraiato sotto un carro armato in piazza Tiananmen, Tiananmen, Tiananmen. Oh man, oh man, you look so peaceful right now. You can describe like this your dad.